Formigine 26 maggio 2001. Carissimi Simone e Sara, vi scrivo per il vostro 14° compleanno fiducioso che a quell'età beviate largamente alla fonte della vera saggezza che nasce dalla parola di Dio e dall'esperienza altrui e propria per vivere un'esistenza felice e fruttuosa. Ritenete il vostro concepimento e la vostra nascita come un altro miracolo di Dio. L'abitudine dell'uomo di vedere questo miracolo ha reso ottusa la sua comprensione nel considerare la vita uno dei doni più belli e preziosi da gustare. Quando ero più giovane, un bambino di pochi mesi, era insignificante per me, ora vedo in lui una meravigliosa creatura con l'istinto di succhiare tutto ciò che lo circonda per esserne assorbito e rimanerne coinvolto al fine di essere partecipe della realtà stessa. Le sue prime gioie e i suoi primi dolori saranno quelli che formeranno e forse condizioneranno il suo futuro. E questo fin dal seno materno. Ancora oggi, quando leggo, ascolto o assisto a delle separazioni irreversibili, le mie viscere si contorcono dall'emozione dentro di me. Ricordo di aver letto più volte la storia di un cane al quale era morto il padrone e di essermi ritrovato ogni volta, con mio massimo stupore, ad avere un pianto irrefrenabile alla fine della storia. Difficile a dirsi il motivo, ma spesso mi chiedo se ciò non sia una reminiscenza del mio passato da neonato. Quando avevo 13 mesi morì mio padre, e alla luce dell'esperienza di oggi posso vedere mia madre 23enne affranta dal dolore con lacrime e sospiri amari. Fra le sue braccia respiravo certamente il suo dolore, e come mi vedo in una foto di quell'epoca, con due occhi pieni di interrogativi percepivo inconsciamente il distacco e il dolore irreversibili. Non ho nessun ricordo a livello conscio, tuttavia la mia emotività è stata certamente segnata per sempre. Ma qualsiasi esperienza che avrete da piccoli nipotini miei, Dio la userà per prepararvi a diventare ciò che Lui vuole che voi diventiate per il vostro bene e per la vostra realizzazione. Perché l'uomo è un fallito e si ammala quando non è quello che dovrebbe essere. Le prime realtà che avete senz'altro percepito nella vita è che essa è composta di gioie e di dolori, di piaceri e di doveri. Le prime gioie erano tutto ciò che vi procurava soddisfazione, i primi dolori erano le sofferenze fisiche e morali. E così, tra pianti e sorrisi, tra incoraggiamenti e delusioni, siete arrivati all'età di frequentare la scuola dove in modo particolare il dovere è iniziato a prevalere sul piacere. Questa tappa vi ha inoltrato nella spoglia realtà della vita quotidiana, dandovi maggiore occasione di comprendere le vostre caratteristiche future, come sta scritto. Fin da fanciullo l'uomo è riconosciuto dai suoi atti, se egli sarà puro e se le sue opere saranno diritte. Per evitare equivoci, carissimi nipoti, vi ricordo che la vita in sé è neutra, e ogni tipo di gioia e di dolore che avete nella vostra esistenza terrena dipende dall'opinione che avete della vita. La pioggia e il sole sono per tutti. Le difficoltà e le sofferenze sono universali, a tutti capita di essere illusi e delusi, ma non tutti reagiscono nello stesso modo. Anche voi, quindi, nelle più svariate situazioni della vita, rivelerete le vostre tendenze naturali, ciò che già è implicito nell'essenza. Così, spesso la provocazione inattesa o ingiusta mostra il carattere di una persona più chiaramente di qualunque altra cosa. Non vi serve a nulla incolpare le circostanze e il prossimo. La reazione più saggia è comprendere voi stessi e la verità. Se fin da piccoli vi siete esercitati a fare del vittimismo, a scaricare le colpe sugli altri, ad essere narcisisti, a serbare dei rancori, a fare le vostre segrete vendette, a vivere con attitudini morali e spirituali dannose, influenzerete un futuro alquanto triste e raccoglierete ciò che avrete seminato. Più vi tufferete nel male, più la sensibilità morale diminuirà. Se invece vi esercitate ad avere un genuino modo di pensare, ad essere padroni di un'alimentazione intelligente, a trovare piacere ad essere altruisti, ad accontentarsi nello stato in cui ci si trova, ad essere sobri in tutto, modesti, a tenere uno sguardo puro, a deliziarvi in letture sane e costruttive, ad essere pazienti e saper perdonare, a saper sfruttare in positivo le circostanze negative della vita, a coltivare una corta semplicità, ad avere umanità nelle valutazioni proprie e altrui, ad avere la saggia abitudine a cedere e a dedicarvi a ciò che produce. Tutto questo dovete farlo ora, alla vostra giovane età, quando la pianta della vostra vita deve ancora prendere la sua forma. Un ramoscello si può ancora raddrizzare, una secolare quercia la si può solo atterrare. Il momento quindi di scoprire i propri doni, superare difficoltà e darsi ad altri, arricchendo la vita di chi è vicino. Che lo vogliate o no, siete arrivati al periodo della pubertà. Il vostro papà, quando era piccolo, pianse perché non voleva diventare grande, altri bambini invece desiderano diventare in fretta adulti. Ma imparerete molto presto che la natura svolge il suo compito avulsa dai sentimenti, per cui sarà cosa saggia adattarsi subito alla realtà e attendere il suo corso. C. È solo da guadagnare e nulla da perdere. La pubertà è uno dei periodi più turbolenti della vita, ma va considerato e preso nel modo giusto. Innanzitutto, l'adolescenza è un periodo normale e transitivo della vita. I vostri alti e bassi fanno parte della vostra crescita. I momenti di profondo dolore e di estrema gioia sono da considerare nell'ambito di emotività nuove e sempre a rischio. Ma spesso i sentimenti sono involontari e non hanno un carattere morale, perciò le inclinazioni illecite che non si concludono con una vera scelta non sono da ritenere peccaminose. Così, carissimi nipoti, consideratevi dei ragazzi normali in fase di crescita. In questo stadio della vita avete dei grossi contrasti tra le vostre sicurezze e quelle dei genitori. Avete bisogno di affermarvi, ma altresì dovete imparare a comprendere come e quanto sia lecito tale inclinazione. In questo ring della vita farete i vostri errori, così inevitabili e indispensabili per comprendere le cose giuste e ciò che vi è lecito. Non avrete tregua un istante, perché la vita è piena di interrogativi e di problematiche. E ciò che può salvarvi da fatali abbagli è la saggezza dei vostri genitori in armonia con la sapienza di Dio. Sappiate ascoltare, ubbidire, anche se ciò vi può apparire spesso assurdo e inconcepibile, ma, una volta considerata la qualità della vita di chi vi ama e vi consiglia, seguite le indicazioni che producono ravvedimento. Saggezza, benessere, felicità, serenità, armonia, inserimento nella società. Ricordatevi che anche voi un giorno diventerete genitori e sarete molto contenti se i vostri figli faranno ciò che per voi è giusto e costruttivo. Se non sapete ubbidire anche come atto di fiducia, come potrete trasmettere ciò che non avete sperimentato? Ricordatevi, nipotini miei, che la vita è come un grande bosco da voi mai esplorato. Tutto è incerto e indefinito. Una volta entrati, siete costretti ad attraversarlo e, benché tutti arriveranno dall'altra parte, pochi sono coloro che lo percorrono gustandone tutte le ricchezze in esso contenute. La cosa più saggia per coloro che camminano per la prima volta in un bosco sconosciuto è iniziare a percorrere i sentieri che altri hanno già tracciato. Per fare questo occorre avere fiducia in chi vi ha preceduto. Questo atteggiamento vi eviterà tanti problemi e dolori dovuti ad errori commessi. Eviterete di incamminarvi in sentieri obliqui e pericolosi e di prendere qualche distorsione per aver messo il piede su un'apparente sicurezza. I sentieri battuti sono sempre i più scorrevoli. Nel bosco troverete tutto ciò che può deliziare i vostri occhi, saziare la vostra fame e la vostra curiosità. Non dovrete però fermarvi ogni volta che vedrete qualcosa di bello, perché ciò vi impedirebbe di arrivare all'appuntamento preparati. Non potrete mangiare qualsiasi tipo di funghi perché ve ne sono dei velenosi, e solo il discernimento potrà impedirvi di fermarvi per sempre prima del tempo. Non potrete esplorare tutto il bosco, perché vi mancherebbe il tempo per dedicarvi a ciò che è veramente indispensabile. Di tanto in tanto potrete tracciare anche voi un nuovo sentiero, ma scostatevi quel tanto da poter sempre udire le voci dei vostri compagni, altrimenti potreste percorrere un itinerario per voi fatale. O, se tutto va bene, molto doloroso sia nell'andata che nel ritorno per ritrovare il comune sentiero di tutti. Abbiate fiducia in voi stessi, ma anche in chi lascia delle orme prive di lacrime amare. Fidatevi anche di coloro che per esperienza hanno battuto un sentiero sbagliato e si sono ravveduti, perché possono indicarvi i dolori e i pericoli che si trovano in esso. Se farete tesoro degli errori altrui, sarà tutto a vostro vantaggio, dimostrerete una saggezza rara e costruttiva che vi aiuterà ad esercitarla in chi ne è ciecamente degno, Gesù Cristo. Il periodo della pubertà è caratterizzato dall'esplosione della sessualità. Non che essa non ci fosse e non sia stata da voi notata fin da piccoli. Mentre facevate il bagno assieme, notavate le vostre differenze sessuali, ed io udivo le risate e i vostri ingenui commenti. Se in seguito tutto potesse rimanere così, ma alla vostra età la sessualità tuona con la prepotenza incontrollata di una valanga. È maliziosa e sospettosa come lo sguardo di un animale impaurito, e curiosa come un cucciolo alla scoperta del suo habitat. Spesso paragono gli istinti sessuali al sole, magnifico, luminoso, esuberante, ma la sua presenza oscura ogni altra bellezza come la luna e la notte con il suo stupendo cielo stellato. Non fate del sesso l'asse sul quale imperniare la vostra esistenza. Gli impulsi sessuali in sé sono come i funghi, alcuni sono buoni, altri velenosi. Sta al vostro discernimento e alla conoscenza di impedirvi di avvelenarvi. Ma nonostante tutto, la sessualità rimane un dono di Dio. Affinché tale rimanga, dovrete accettare la vostra sessualità con tutti i suoi turbamenti e le sue ansie, le sue gelosie e i suoi tabù, perché è l'impulso più sconvolgente che ci sia nell'uomo. Simone, come uomo, il tuo ruolo è il più difficile. Come in tutta la natura che ti circonda, la tua sessualità grida fortemente nel tuo corpo, al punto che essa ti impedisce di udire gli altri impulsi più dolci e delicati della vita. La tua passeggiata nel bosco potrebbe essere privata di altri mille piaceri e divertimenti. È più che lecito e giusto cercare una compagna nell'esplorare il bosco, perché quattro occhi vedono meglio di due e se uno cade l'altro lo rialza. Ma se la ricerca della compagna diventa un'ossessione, ti privi di soddisfazioni attuali e reali per perseguire castelli in aria. Il nonno ha seguito e sta seguendo il sentiero tracciato da altri e tutti possiamo dirti in coro che la sessualità è bella se occupa il giusto posto al momento giusto con la persona giusta. Simone, non è la sessualità in sé che è bella perché essa rimane sempre comunque un impulso biologico, ma è la giusta condivisione di essa che la rende appagante. Questo è l'aspetto stupendo e nello stesso tempo drammatico della sessualità. Stupendo perché essa è un dono di Dio. Drammatico perché bisogna essere in due. Se non vi è armonia e complementarietà, la sessualità presto si trasforma in dramma. Devi vedere la sessualità, Simone, come ogni altra necessità della vita. Mangiare è bello, dormire è necessario, lavorare è utile, ma se mangi smisuratamente ti ammali. Se dormi mentre stai guidando la macchina ti capita un incidente, se lavori troppo ti prendi un esaurimento. Comprendi allora che ogni necessità è piacevole, utile, vantaggiosa, se soddisfatta nel giusto contesto. Saper aspettare è il segreto di una vita vittoriosa. La scuola della sessualità è una delle discipline più dure, ma senza una scuola dura non possiamo reggere nel tempo. Forse ci saranno dei tuoi amici che prenderanno in giro l'insegnante e la vita facendo finta di studiare. Accettare il divieto, ma le leggi naturali non si possono violare impunemente. Può anche darsi che dei tuoi amici giochino anticipatamente con i piaceri della sessualità per evitare la disciplina della continenza. Ma sappi per sicuro che saranno bocciati quando saranno richiesti a loro degli esercizi che non hanno mai imparato. L'appetito sessuale non può essere sempre e comunque soddisfatto. Non è un campo di libera espressione dove puoi fare quello che vuoi, dove vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Il tuo carattere e la tua personalità vengono fatti o disfatti da come ti relazioni con la tua sessualità. Ogni degna conquista umana richiede autodisciplina. Il tuo dominio sulla sessualità è dunque determinante. Sara, come donna, il tuo ruolo è determinante perché sei la guardiana delle relazioni sessuali e ne stabilisci gli standard. Molto probabilmente la tua sessualità è composta da tanti sogni e come Eva vedi delle realtà alterate costruite da bambina. Come avrai capito, non tutte le donne nascono con una certa predisposizione alla sessualità. Quando eri piccola, Sara, hai sempre mostrato orgogliosamente la tua sessualità, mentre ci sono delle bambine con una pudicizia prematuramente matura. La nonna è stata una di queste, e per questo nella vita ha evitato tanti dolori e affanni nel campo sessuale. Ci sono delle ragazze, Sara, che si cercano i problemi, o li attirano come la calamita attira il ferro. Ho presente quelle ragazzine, e non solo, che hanno la gonna corta, fin troppo corta, per poi osservarle come del continuo tentino di allungarla ad ogni movimento del corpo. È evidente che si sentono in imbarazzo perché diversamente non allungherebbero la gonna. Non rendono i presenti a loro agio essendo loro stesse in impaccio. Provocano e distraggono illegalmente i presenti maschi. Anche se con un gesto apparentemente pudico. Sarebbe sufficiente una gonna lunga. Ed eviterebbero tutte le problematiche connesse ad una gonna troppo corta. Se le loro intenzioni fossero disoneste, non vedo il motivo di coprire le gambe, se sono ben intenzionate, perché cercare e creare problemi morali e vivere con una simile tensione? È una menzogna esprimere o lanciare messaggi con il proprio corpo, lasciando intendere ciò che non si direbbe o farebbe mai altrimenti. Sappi, Sara, che nel campo sessuale tu hai il coltello per il manico. Gli uomini arrivano fin dove tu permetti. La nonna non ha mai avuto né avance né problemi con dei ragazzi. Pensa, è uscita per la prima volta da sola con un uomo per stabilire un rapporto serio a 24 anni. Quell'uomo fodero ero io. Il tutto può avere il sapore di antiquato o di matusalemmico, ma i dolori e le tensioni che si è risparmiata superano di gran lunga i rapporti apparentemente piacevoli dei giovani che, in realtà, sono drammatici e insoddisfacenti. Bisogna parlare ancora della sessualità e del matrimonio perché, cari nipoti, la vostra vita, se scorrerà nella norma, vi condurrà al matrimonio ed ad esercitare la sessualità. L'atto sessuale non è soltanto un'unione di carattere fisico, ma è anche l'espressione esteriore di complesse reazioni emotive, intellettuali e spirituali. Per questo la parola di Dio denuncia la sensualità che mortifica e uccide l'anima. Rigetta quei miti del piacere che rimarranno irraggiungibili ma non fa violenza agli istinti naturali e leciti. È anche vero che la realtà con la quale la parola di Dio affronta il matrimonio è fin troppa cruda e non lascia spazio a sentimentalismi o romanticismi. L'Apostolo Paolo invitava le persone nubili, se era possibile, a rimanere così perché avrebbero avuto tribolazione nella carne. Tribolazione, non piacere. Certamente l'Apostolo pensava anche alla donna, che deve partorire con dolore, all'uomo che deve astenersi dalla sessualità per forza maggiore, alla convivenza che è sempre difficile e impegnativa. Eppure, da giovani si desidera ardentemente risposarsi. E ciò è lecito. Uno dei maggiori fattori per i quali siamo spinti verso il matrimonio è la polarizzazione e il piacere della sessualità. E ciò è normale. Diversamente, senza questo istinto naturale, senza un po' di incoscienza, di illusioni, pochi sceglierebbero il matrimonio. Ricordatevi, nipotini miei, che il matrimonio non è la soddisfazione della sessualità, ma la più grande sfida e il banco di prova del vero amore, quell'amore che inizia quando una persona sente che i bisogni di un'altra persona sono importanti quanto i suoi, che si affida completamente e incondizionatamente nella speranza che l'amore desterà amore nella persona amata. Quell'amore che è sostenuto dal cuore e dalla volontà di sottomettersi alle condizionali del contratto matrimoniale, quell'amore che non è tanto la causa ma piuttosto il prodotto del matrimonio, che è sempre pronto a sacrificare. Da nubili avete una certa libertà di scegliere, di andare, di decidere una volta sposati, la vostra libertà è dimezzata e condizionata dal coniuge e più tardi subordinata a quella dei figli. Sposarsi significa perdere, condividere, rinunciare, servire, soffrire, dare a volte a senso unico. E questa è la ragione che spinge tante coppie a gettare la spugna e a separarsi. È vero che la passeggiata nel bosco in due porta con sé tante gioie e arricchimenti, ma spesso le gioie si dimenticano o si ritengono di dovere, mentre i dolori spesso lasciano cicatrici indelebili e uccidono ciò che resta dell'eccitamento iniziale. Ma nella relazione di un uomo e una donna che si amano reciprocamente con passione, fantasia e tenerezza, anzi, è un valore inestimabile e ignorarlo sarebbe un grande danno per chiunque. Simone e Sara, non vi invito a rimanere soli perché chi ha trovato moglie o marito ha trovato un tesoro, ma a valutare intelligentemente la scelta del vostro partner nell'ambito della fede cristiana. Mi rendo conto che alla vostra età è impossibile possedere gli elementi e l'esperienza di un adulto, perciò ascoltate non solo il vostro cuore, ma anche coloro che hanno tracciato prima di voi il sentiero che conduce alla saggezza e alla felicità. Ritenete la vita con la sua emotività un campo minato. Posate i piedi sulle orme del prossimo e non avrete grosse esplosioni dolorose. Se le tre fonti della conoscenza umana sono l'esperienza, la ragione e la testimonianza, alla vostra età non vi resta che ricorrere a queste tre autorità possedute da altri. Avete ormai capito alla vostra età, nipotini miei, che non siamo solo fatti di un corpo. Anzi, la nostra vita è per lo più vissuta a livello spirituale. Amicizia, affetto, simpatia, amore, tradimenti, rancori, vendette. Per quanto il vostro corpo reclami le sue necessità, la vostra anima e il vostro spirito gridano disperatamente di essere pienamente soddisfatti. Potete essere sani, potete avere tutto ciò che vi occorre fisicamente, ma se non siete realizzati e non vi sentite amati, è come se non aveste nulla. Rimane solo il tedioso moto della mera esistenza e di sprofondare nelle sabbie mobili del fatalismo. Le necessità dello spirito sono più impellenti delle fisiche. La ricerca spirituale è dunque inevitabile, anche perché un'educazione senza Dio non è affatto educazione. Siate saggi. Gli argomenti che non possono darvi la fede non possono neppure togliervela. Non lasciatevi confondere dalle parole convincenti. Non seguite idee o religioni che vi chiedono un consenso totale, al punto da annullare la vostra volontà o personalità. Ricordatevi che sarete schiavi solo di ciò che vi vince. Il cristianesimo evita fatali errori perché l'amore di Dio lascia integra la vostra personalità e individualità. Però anche nell'ambito della fede cristiana siate accorti, diffidate di tutte quelle disquisizioni teologiche che non hanno nulla di vissuto e tendono al misticismo. Fuggite a un cristianesimo idealista, che non ha rapporto con la vita, che vi allontana dalla quotidianità, che non vi induce a vivere appassionatamente la fede cristiana, che non produce una relazione vivente ed intima con Gesù Cristo, che non ha la sua sede nell'intelligenza. Prima o poi imparerete che il cuore non può mai avere completamente ragione se la testa ha completamente torto. L'importante nella vita cristiana non è avere ragione, quella ragione per la quale tanti cristiani si rodono la vita, ma camminare sul sentiero che produce un benessere fisico, morale e spirituale. La mia filosofia di vita mi ha portato a concludere che è meglio essere apparentemente nel torto e godere del benessere fisico e spirituale, che riposare sulla convinzione di avere ragione e vivere circondato di inutili dolori. Se cercate il consenso per avere ragione, sarete disarcionati dalla ragione stessa. Se cercate la verità per onorarla ed osservarla, essa vi proteggerà e vi guiderà in ogni occasione. Al di là di ogni ragionamento più o meno valido nell'ambito del cristianesimo, tenete presente una verità per tutta la vostra vita. Tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti in Gesù Cristo. Credere a questo significa dare al nostro Dio Signore Padrone la precedenza in tutto e aver trovato la fonte dove attingere ogni giorno. La parola di Dio, letta quotidianamente con diligenza e un sano spirito di preghiera, vi darà ciò di cui avete bisogno, dandovi la capacità di esercitarvi ad usare i pensieri positivi per contrastare i sentimenti e le situazioni negative. Essa vi darà di dirigere l'attenzione verso mete realizzabili ed eterne, smantellerà false sicurezze e deboli opinioni per produrne delle reali e sicure. Forse non riuscirete a capire tutto ciò che leggete nella parola di Dio, ma potrete ubbidire a tutto quello che capirete. Quando avete a che fare con cose spirituali, la capacità della ragione deve lasciare spazio all'autorità della parola di Dio, diversamente permetterà a ragionamenti erronei di determinare il vostro destino. E ciò non è ragionevole. Nipotini miei, tra i tanti doni ricevuti da Dio, avete avuto anche quello di essere nati da un papà e una mamma in un contesto normale. Per contesto normale intendo che i vostri genitori si sono conosciuti fin da giovani, si sono piaciuti, erano e sono tuttora figli di Dio, si sono sposati con il desiderio di sposarsi, hanno desiderato la vostra nascita. Anche questo aspetto ha influito sulla vostra educazione e formazione. Pensate a tutti quei bambini che nascono in un contesto di violenza, che subiscono l'urto di convivenze caotiche e di matrimoni ricreati. Ma Dio, che è grande in misericordia, è in grado di trasformare il male in bene, di suscitare dei suoi servitori nelle situazioni più drammatiche. Non è raro che in un matrimonio ricreato e fallito un coniuge realizzi la nuova nascita. E allora tale coniuge diventa un prezioso strumento nelle mani di Dio per indicare a suoi figli le strade sbagliate da non imboccare. Ancora una volta tocchiamo con mano ciò che afferma la Scrittura: dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Ricordo che il vostro papà, all'età della pubertà, espresse il suo rammarico perché non aveva commesso certi peccati. Prima di diventare un figlio di Dio, gli risposi che questo suo sentimento, comune a molti, nascondeva una trappola del diavolo. È vero che alcuni hanno toccato il fondo prima di arrendersi all'amore di Dio, ma nella loro vita cristiana essi sono per sempre marcati dal passato con tentazioni e prove non indifferenti. Se un occhio che non vede non duole, chi non ha esperienze non ha nostalgie né reminiscenze. Ricordatevi che il peccato, oltre a offendere Dio, lascia sempre un residuo. Vi invito quindi, cari nipoti, a seguire il sentiero piano dei vostri genitori, il sentiero dei cristiani, perché ne conoscete sia la via, sia dove vi conduce. Evitate perciò quelle compagnie cattive, viziose e distruttive, i ragazzi amorfi, la cui anima è morta sebbene il corpo sia vivo. Rifiutate quei giovani che hanno conversazioni banali, che chiacchierano anziché parlare, che sentono anziché udire, che guardano ma non vedono, che hanno sempre qualcosa da dire anziché avere da dire qualcosa, che camminano in questo mondo ma non vanno da nessuna parte, che distruggono senza costruire, che vivono come telecomandati da un programma che non conoscono, che sono come denti impersonali, in una ruota in perenne movimento, che seguono la via della convenienza anziché quella della morale, che sono isole di egoismo, amanti del piacere anziché di Dio. È chiaro che una volta sposati secondo le regole di Dio, ciò non è garanzia di felicità, ma almeno avete la patente. Potete guidare il vostro futuro verso la felicità e la casa diventerà una cittadella dell'anima contro la quale le frustrazioni e le avversità della vita perdono il loro potere dirompente. Simone e Sara, vi ho scritto con un cuore da nonno. Ormai non sono molto lontano alla desiderata meta. Intravedo la luce che in fondo al bosco si fa sempre più lucente. Posso dirvi che la mia passeggiata è stata soddisfacente e sempre piena di piacevoli novità. Non ho vissuto da turista, anche perché le circostanze non lo permettono, ma il mio desiderio di conoscere ha reso tutto più gradevole. Una cosa è studiare per forza, altra è dedicarsi all'apprendimento di una materia che desideri conoscere. Lo sforzo è sempre quello, ma piacevolmente desiderabile. Ho desiderato conoscere Dio più della mia stessa vita, ed Egli si è fatto conoscere. Ho desiderato la sapienza più di ogni altra cosa, e Gesù me l'ha donata. Ho sempre desiderato una compagna di viaggio adatta a me, e ho avuto anche quello. Ho sempre desiderato dei premi, e avrò la corona che Dio dà a coloro che lo amano. Vorrei fermarmi ancora in questo bellissimo e svariato bosco per osservare tante cose, per gustare tante delizie, per conoscere altri compagni di viaggio, con i quali piacevolmente condividere gioie e dolori, per indicare ad altri come imboccare i giusti sentieri. È gratificante vivere con un buon discernimento, ma ancora di più essere strumento per la salvezza del prossimo. Ma ciò che mi aspetta non è da paragonare con la presente vita che ho trascorso sempre con lo spirito del salmista. Poiché la tua misericordia vale più della vita, le mie labbra ti loderanno. Anche in questo commiato le mie viscere si commuovono. Sono inguaribilmente emotivo. Vorrei starvi sempre vicino, vorrei consigliarvi ad ogni istante, vorrei evitarvi tanti dolori, vorrei trasmettervi le mie esperienze e capacità, vorrei, ma non è possibile. Voi siete e sarete il frutto delle vostre esperienze e di ciò che la mente si nutre. Ecco perché la vera vita inizia con un incontro personale e razionale con Gesù Cristo. Fatta questa esperienza, egli sarà la luce che illuminerà il vostro sentiero in questa selva sconosciuta alla vostra intelligenza per una vita gratificante. Rischiarerà ogni oggetto che si troverà nel fondo del bosco, vi istruirà sulla scelta dei veri compagni di viaggio, avrete l'indistruttibile certezza di appartenere per sempre a Lui. E ancora, l'incontro con Gesù, dopo del quale non sarete più padroni di voi stessi, vi garantirà che un giorno sarete con i genitori e con i nonni per l'eternità. E allora il nonno Ellero vi verrà incontro piangendo, ma con le lacrime della felicità eterna. Noelle, come avete iniziato a chiamarmi. Maggio 2001. Ellero.